da questo, che consideri il Mediterraneo come è frontiera europea e che sia insieme a noi in un'operazione che mira a salvare vite umane. Questo l'Europa lo deve fare se vuole rispettare se stessa e i propri principi, principi fondanti, cioè il rispetto di vite umane. Il salvataggio di vite in mare è un obbligo, la Convenzione di Ginevra è stata firmata da tutti gli Stati membri, dunque si tratta della via dell'asilo, il Mediterraneo è la via dell'asilo e l'Europa è chiamata oggi a dare dei segnali rispetto al salvataggio di vite umane. Si può evitare, Presidente, che diventi un'operazione di polizia meramente? Allora, quello che noi abbiamo chiesto all'Europa e che continuiamo a chiedere è che Frontex Plus sia strutturata con mezzi e risorse tali da poter compiere il salvataggio e che anche il mandato stesso di Frontex chiarisca il punto che bisogna passare dal pattugliamento al salvataggio, quindi al rescue at sea. Questo è un punto fondamentale, perché se noi, dovendo ridurre l'operazione Mare Nostrum, ci dovessimo trovare in una situazione in cui nessun altro subentrerà e unirà le forze a noi, noi ci troveremo di fronte a molti altri morti in più, migliaia di morti in più, perché purtroppo le situazioni di crisi nel mondo non stanno migliorando. Parliamo della Siria, parliamo della Somalia, parliamo dell'Eritrea, parliamo di tutti i paesi in cui a oggi la situazione non è migliorata. E allora purtroppo, da quando mondo è mondo, quando c'è un conflitto i civili fuggono, i paesi confinanti sono i più esposti, lo sono il Libano, lo sono i paesi come la Giordania, la Turchia, in questi paesi ci sono milioni di rifugiati, in alcuni casi arrivano a rappresentare il 20% della popolazione, ma ci rendiamo conto cosa significa? Quindi l'Europa non può far finta che questi conflitti non ci sono e che ha altre priorità, perché se l'Europa fa questo, come potremo chiedere poi ai paesi confinanti di farsi carico? C'è poi il problema della tratta degli esseri umani. Recentemente il GRETA, l'organismo del Consiglio d'Europa che se ne occupa, ha diffuso il primo rapporto sull'Italia. In Italia, dicono gli esperti, c'è insufficiente attenzione al tema e i mercanti di uomini troppo spesso non vengono poi condannati. Dal 2009 al 2012 migliaia infatti sono sotto processo, ma solo 14 condanne sono state emesse nel 2010 e 9 nel 2011. Il portavoce Giuseppe Zaffuto. Anche se va detto che ci sono stati degli sforzi notevoli per quello che riguarda il ruolo dell'Italia, soprattutto sulle possibilità per il permesso di soggiorno, per chi ha poi cooperato grazie ai nostri testi. Quindi quello che si riscontra comunque del rapporto GRETA del Consiglio d'Europa è l'assenza di un sistema di identificazione uniforme e di una coordinazione, se vogliamo, a livello nazionale, quanto piuttosto a livello regionale e a livello, se vogliamo, locale. Lo stesso rapporto di GRETA ha lodato l'Italia per determinate iniziative. Tra le altre cose vorrei pure segnalare come il rapporto identifichi il lavoro dei carabinieri estremamente utile, soprattutto in una fase che in certi paesi, contrariamente all'Italia, viene un po' dimenticata, che è la fase preliminare di identificazione delle vittime. E quindi in questo senso, se vogliamo, naturalmente il rapporto del GRETA attende vari progressi da parte della legislazione italiana, come dicevate dallo studio, ma nello stesso tempo identifica anche alcuni punti forti dell'Italia. Ad esempio quali? Ad esempio la possibilità di avere un permesso di soggiorno legato al cosiddetto percorso sociale, quindi di cooperazione, se vogliamo, nella rete di grande solidarietà che viene identificata in Italia con tutte quelle che sono le organizzazioni non governative di aiuto e di tutela per le vittime della tratta e anche di tutta quella che è l'organizzazione no profit che, come sappiamo, in Italia è estremamente ben diffusa per aiutare queste vittime. Questo tema si dibatte anche fra gli esperti. Paola Degani, docente di diritti umani dell'Università di Padova. Intanto io ho fatto parte di una delle delegazioni che è stata ricevuta dal GRETA. Sono d'accordissimo con il giudizio severo del Consiglio d'Europa, tengo però a precisare che i procedimenti per tratta in quanto tali sono esigui dal punto di vista numerico, perché oggi il fenomeno ha subito delle diversificazioni nella modalità canonica di estrinsecarsi, per cui da un punto di vista strettamente procedurale l'applicazione in sede giudiziaria di quelle fattispecie collegate alla tratta in quanto tale risulta essere estremamente difficoltosa. Faccio un esempio concreto. Oggi, piuttosto che un rinvio a giudizio per 601 codice penale, è molto più facile contestare, che sarebbe per la tratta? Sì, è molto più facile contestare 600-601 riduzione di schiavitù, tratta di persone, è molto più facile contestare lo sfruttamento sessuale di una persona. Euro Reportage, in collaboratore con Euronet Plus.